si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Saremo insieme fino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta un'ora fa circa dalla nostra Giulia Crivelli, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, apriremo anche il numero verde, giocheremo con voi, parleremo, il primo approfondimento ve lo dico subito, andremo in Basilicata dove si stanno preparando le trivelle per l'estrazione del petrolio, c'è un boom di richieste di autorizzazione al Ministero per lo Sviluppo Economico, in alcuni casi anche come normale che sia, ma tutto da verificare, in questi casi contro il parere delle popolazioni locali e dei comuni che sono schierati in gran parte contro le trivelle, e sembra una riedizione del Notav in chiave Notriv. Ecco, di questo parleremo più avanti dopo il giornale radio delle 9. Adesso però andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine del giornale di oggi. Vai. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E dunque oggi ancora gli echi dell'approvazione dei decreti sul Jobs Act, le reazioni in campo soprattutto sindacale e nella sinistra, in generale in Italia, a sinistra del PD, come normale che sia, reazioni soprattutto in campo sindacale che parlano di possibili futuri scioperi come già successo altre volte, ma anche un Landini particolarmente agguerrito, vedremo l'intervista più avanti, poi Fitto, le dichiarazioni di Fitto per quanto riguarda Forza Italia, ma anche un po' di cronaca. E poi la morte di Luca Ronconi, cominciamo con questa fotonotizia, va sul Corriere della Sera, addio a Luca Ronconi, ha rivoluzionato il teatro, un innovatore, l'erede di Strehler, per molti regista ideale, fantasioso e controcorrente, autore di spettacoli memorabili. Luca Ronconi si è spento a 81 anni, era nato l'8 marzo del 1933 in Tunisia, aveva diretto il Teatro Stabile di Torino, ma anche il Teatro di Roma, il Piccolo di Milano, e da tempo era malato. Ma dicevamo, per quanto riguarda invece il tema lavoro, giovani, così cambia il lavoro, il titolo del Corriere della Sera, il titolo principale. Poi il ministro dell'economia Padoan, che all'Unione Europea dice, manda a dire, il PIL crescerà del 3,6%, ma nel 2020. Sono una serie di fattori concomitanti, ormai l'abbiamo capito, che vanno in questa direzione, il ribasso del prezzo del petrolio, anche il nuovo rapporto nella valuta euro-dollaro che favorisce le esportazioni, e poi perché no anche gli effetti del Jobs Act, ma soprattutto della decontribuzione dei nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato. È questo il titolo tra l'altro del Sole 24 Ore, diamo un'occhiata, contratti a termine oltre il 20% e sanzioni soft per le imprese. Soglia superabile con gli accordi aziendali, salta l'obbligo di trasformazione a tempo indeterminato in caso di sforamento. Licenziamenti collettivi, niente reintegra, solo per i nuovi assunti. Vedremo tra poco, torneremo anche sul Sole. Adesso però, a proposito delle misure prese dal governo, non c'è solo il Jobs Act, ma c'è anche la questione delle liberalizzazioni. Allora, il giorno dopo, per quanto riguarda l'uscita dei giornali, vediamo qualche piccolo approfondimento per saperne di più. Intanto, per esempio, sulla questione RC Auto. Come sapete, chi adotterà la scatola nera, ma anche il meccanismo che prevede il ricorso all'etilometro prima dell'accensione dell'auto, per vedere appunto che il pilota, diciamo, sia nei limiti tollerati dalla legge, ci saranno forti sconti sulle RC Auto. Ma già ieri l'associazione dei consumatori, il Codacons in particolare, parlava di una bufala. Chi pagherà le spese di queste installazioni? Se le deve pagare l'automobilista, dicono i consumatori, allora è finita, risparmi da una parte e spendi dall'altra. Il ragionamento non fa una piega. Il Corriere scrive questo: il costo per gestione e installazione di una singola scatola nera sarebbe di 75 euro l'anno. Se questo costo, ma anche la manutenzione, toccherà all'automobilista, lo sconto sulla polizza a questo punto si ridurrà a poca cosa, forse verrebbe del tutto annullato. Continua il Corriere. Al di là di questi scetticismi, va detto che il progetto presentato dal Ministro dello Sviluppo Economico Guidi prevede una riduzione significativa delle tariffe per chi accetterà queste clausole. Riduzione significativa, bisogna vedere di cosa parliamo, perché appunto il costo della scatola nera si aggira intorno ai 100 euro, quindi bisogna che lo sconto sia maggiore, altrimenti non vale la candela. Altro tema, cosa succede con le farmacie? C'era l'attesa, diciamo così, da parte dei consumatori, insomma, in generale di una possibilità di risparmiare ancora sull'acquisto dei farmaci dopo il passaggio, diciamo, dei farmaci generici già vendibili nelle parafarmacie e negli ipermercati, ma si aspettava la liberalizzazione sui farmaci di fascia C, cioè quelli prescrivibili con ricetta ma non essenziali. E questa cosa non è arrivata, mettiamoci tranquillamente il cuore in pace, è arrivato l'ingresso delle società di capitali dentro le farmacie. Che tipo di risparmio dovrebbe portare questo è ancora da capire. Secondo il governo, scrive il Corriere, la liberalizzazione permetterà alle imprese proprietarie di più farmacie, le famose società di capitali, di attivare delle economie di scala, riducendo i costi di gestione con riflessi positivi anche sui prezzi praticati ai consumatori. E quindi, diciamo, nel medio periodo vedremo se questo accadrà e se ci saranno questi risparmi. Lasciamo il Corriere con un ultimo approfondimento, che è quello, come ogni domenica, sul consenso del governo. Un anno dal governo e risale la fiducia su Renzi. La fiducia sul Presidente del Consiglio, che era scesa all'inizio di gennaio, diciamo alla vigilia dell'elezione di Mattarella, con un po' il caos sul il patto del Nazareno, eccetera eccetera, tutte questioni eminentemente politiche, adesso diciamo all'indomani della di nuove decisioni, paga sempre la presa di decisioni soprattutto per questo tipo di governo, ma direi in generale, e il consenso di Renzi risale dal 42 al 45%. Basta guardare la curva per capire che si tratta della prima ripresa da insomma 8 mesi a questa parte, quando dal 64% il consenso era sceso al 42%, il consenso di Renzi. Quindi c'è una piccola ripresa segnalata su questo dal Corriere. Repubblica fa il doppio titolo sull'Italia e sulla Grecia: lavoro, battaglia sul Jobs Act, Atene, ora stop all'austerity. Queste almeno le aspettative da parte del premier greco Tsipras. Sull'Italia la presidente della Camera Boldrini attacca: Parlamento ignorato, temo un uomo solo al comando. Il premier alla minoranza del PD, che replica però: questa è una riforma di sinistra, il Jobs Act. E poi Del Rio, che rincara la dose: avete un problema con la modernità. Dicevamo anche di Fitto, quindi questioni di casa nel centrodestra. Fitto rilancia la sfida a Berlusconi, no a Salvini, e rinasce Forza Italia. La partenza non è proprio quella di una corazzata, scrive Repubblica. L'inno nazionale che si inceppa un paio di volte, i video che non partono, l'audio è quello che è. Raffaele Fitto parla a braccio, il tono non è proprio di chi si sta dichiarando una guerra, ma l'armata dei ricostruttori, così hanno deciso di chiamarsi, forse un po' artigianale, parte comunque a modo suo all'arrembaggio del partito di Silvio Berlusconi. Però su Repubblica c'è un'altra, c'è un'intervista al segretario CGIL Camusso sulla questione, naturalmente, del lavoro. Firmiamo per un nuovo statuto dei lavoratori, il governo cancella i diritti ma non crea posti di lavoro. Vediamo, l'azione scontata, lo sappiamo, da parte della Camusso, ma vediamo cosa c'è nelle intenzioni del segretario del primo sindacato italiano. Il problema sono i diritti di coloro che lavorano, nel decreto del governo non c'è alcuna estensione dei diritti e delle tutele, non cambierà nulla ed è l'ennesima dimostrazione del baratro che c'è tra gli annunci e la realtà, dice Camusso. Eppure nel decreto c'è scritto: il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. Non è quello che chiede la CGIL? Certo, ma quello che hanno realizzato non è un contratto a tempo indeterminato, dice la Camusso. La monetizzazione crescente degli indennizi non è un rapporto di lavoro nel quale si realizza la libertà del lavoratore, c'è piuttosto lo stato di perenne condizionamento alla costituzione di uno stato servile e non paritario. E questi, diciamo, sono i giudizi noti della Camusso sul Jobs Act. Cosa accadrà? Raccoglieremo le firme per una legge di iniziativa popolare. Ci stiamo lavorando, coinvolgeremo il maggior numero di lavoratori, persone, associazioni, studiosi e tutto quello che è possibile. Pensate di raccogliere anche le firme per un referendum abrogativo del Jobs Act? No, cioè scusate, sì, non abbiamo escluso nulla, valuteremo tutto ciò che è utile a sostenere la nostra proposta di legge. Quindi, diciamo, tra le cose possibili c'è anche il referendum per abrogare il Jobs Act, e questa sarebbe una interessante prova per mettere a confronto il consenso, appunto, di Renzi, ma anche un tema così delicato come quello delle tutele sul lavoro a confronto. Ma a proposito di questi temi, allora voliamo sul Fatto Quotidiano per l'intervista a Maurizio Landini che avevamo anticipato, che è sulla stessa linea naturalmente di quello di quella della Camusso. Cambia un'epoca, è ora di sfidare Matteo. Tralasciamo i giudizi, diciamo, di contenuto che sono abbastanza noti sul tema del Jobs Act, andiamo sulle frasi più d'effetto, più politiche. È cambiato tutto, siamo alla fine di un'epoca, è venuto il momento di sfidare democraticamente Matteo Renzi, cioè quindi uscire da un tema di battaglia sindacale, dice Landini, per una sfida sul terreno democratico. Ma sta dicendo che è pronta la sfida politica? Allora, cosa di cui si è parlato tantissime volte per Landini, il problema è che la maggior parte del paese, quella che per vivere deve lavorare, non è rappresentata. C'è un fatto nuovo nel rapporto tra politica e organizzazione sindacale. Sta dicendo che sta pensando a un partito? No, sarebbe una semplificazione. A cosa sta pensando allora Landini? Occorre la rappresentanza di quegli interessi. Apriamo questa discussione esplicitamente. Per quello che riguarda la FIOM, dobbiamo rivolgerci a tutto ciò che è rappresentanza sociale, non solo i lavoratori. C'è tutto un mondo che si deve porre il problema di come affrontare questo nuovo quadro. Insomma, se non è la nascita di un partito, ci manca poco. Vedremo. Il titolo comunque è Cambia un'epoca, è ora di sfidare Renzi democraticamente, dice Landini. E quindi, insomma, il tema è quello del referendum, probabilmente, come primo passo. Credo che sia questa la questione. Sulla Stampa, per invece trovare un'altra notizia che non c'entra nulla con tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, non è una buona notizia, anzi è record di furti in casa secondo il Censis, un colpo ogni 2 minuti, più che raddoppiati in 10 anni. L'allarme riguarda soprattutto il nord-ovest, la zona tra Asti, Torino e Pavia è nella morsa di un'ondata senza precedenti di rapine e aggressioni in casa, parla una delle vittime: mi hanno picchiato per 20 euro, ora ho il fucile in camera, tanto lo Stato non ci difende. E questa è una vecchia storia, anche se il Censis parla di dati nuovi e ancora più allarmanti. Sul Messaggero, per un'altra questione ancora, il sacco di Roma, un decreto per difendere la capitale, è quello che annuncia il Messaggero in prima pagina, titolo principale: incontro Alfano Marino, stretta del Viminale dopo le violenze ultra, in arrivo norme per il decoro, meno autorizzazione a manifestare nel centro, più controlli e telecamere, rigore contro gli abusivi. E che c'entrano gli abusivi? Cosa c'entrano gli abusivi, viene da pensare, dopo quello che è accaduto a Roma con i tifosi olandesi? Vengono sempre fuori i commercianti abusivi, non che io abbia particolarmente a cuore di volerli difendere, però cosa c'entrano i venditori di borse taroccate con la sicurezza della capitale, con la distruzione dei monumenti, con le violenze, con i feriti, con gli arresti? Non c'entra proprio nulla, però è questo poi il tema che ogni volta ricorre, la proposta di inasprire le sanzioni, per esempio anche sulla movida, anche questo dice, anche di questo parla la proposta che è in campo, le nuove misure allo studio del Viminale, leggiamo velocemente: limitare le autorizzazioni a manifestare in centro, e questo è legittimo naturalmente in una città storica come Roma, stabilire regole rigide per la vita notturna, ancora una volta questa proposta che ritorna, controlli rigidi, sistemi di videosorveglianza capillari anche in accordo con le associazioni di categoria. Basterebbe far girare, credo, qualche pattuglia in più di sera, anziché vietare di bere la birra all'aperto, no? Potrebbe essere più semplice, forse, magari più dispendioso dal punto di vista delle forze dell'ordine, questo però è un altro capitolo. C'è anche la maggiore severità contro il commercio illegale, dicevamo, i controlli sugli abusivi, tra le norme previste dal Viminale per mettere, diciamo, al sicuro la sicurezza e il decoro della città di Roma. Ci fermiamo per una breve pausa per il traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Adesso è il momento di cambiare passo, godiamoci gli approfondimenti culturali del domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Ritroviamo Armando Massarenti, curatore responsabile, il direttore. Armando, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Allora, carissimo Armando, se vuoi intanto prepararti una delle tue pillole per chiudere, per salutarci, le istruzioni per rendersi felici dal tuo libro, con cui ci piace sempre chiudere questi appuntamenti, poi naturalmente sfogliamo insieme il domenicale, Armando. Sì, dunque il domenicale contiene anch'esso di pillole, anzi a volte delle riflessioni di ampio raggio, come quella che noi abbiamo in copertina, che è un vero e proprio ritratto, un ritratto di un ritratto, diciamo. Massimo Firpo, uno dei nostri maggiori collaboratori, un grande storico, ritrae il libro su Erasmo, cioè un grande intellettuale che tutti conosciamo, ma è un ritratto molto particolare quello di cui parla, perché è di Carlo Ossola, cioè un nostro critico, uno dei nostri principali critici letterari, che, come sapete, insegna al Collège de France, quindi è una delle massime autorità a livello europeo di tutto questo, che ha scritto un libro appunto su Erasmo, un ritratto che vuole un po' togliere un po' di, come dire, insomma, è un ritratto abbastanza inusuale e molto approfondito. È un ritratto di Erasmo che si intitola appunto Erasmo nella notte dell'Europa, proprio a sottolineare dell'eccezionalità di questo grande intellettuale, che è un intellettuale del Rinascimento, ma che si pone al di sopra delle querelle tipiche di quell'epoca, cioè in particolare quella della Riforma, e quindi disegna un Cinquecento che non si lascia irretire dalle contese religiose e che toglie all'eredità classica i paludamenti aulici e alla tradizione patristica i tratti apologetici per andare a fondo dell'esame della condizione umana, e viene descritto come un sileno, cioè come quelle statuette greche che magari non sembrano bellissime dall'esterno, perché anch'esse magari provate, no? da una serie di cose, ma che poi all'interno racchiudono tantissimi contenuti molto, molto interessanti, e quindi abbiamo anche una specie di Erasmo segreto. Ecco, insomma, Erasmo a noi poi rimanda sempre nella vita comune il famoso gli Erasmus, no? Cioè il fatto, certo, che i nostri ragazzi, una delle cose che ha avuto più successo, una delle cose di successo dell'Europa, sì, dell'Europa, sì. E allora questo ci rimanda alla scuola, e in questo numero, tra i tanti contenuti che possono essere interessanti a quell'enorme galassia di persone che ruotano intorno alla scuola, il nostro ministro parla di 11 milioni di persone, ed è appunto il ministro Stefania Giannini che io ho intervistato e che ci racconta un po' di cose, insomma, che preconizzano poi il grande decreto, il decreto che ci sarà il 28 di febbraio. In questa intervista io riprendo un po' la nostra campagna che abbiamo fatto sul Sole della domenica, in cui abbiamo appunto cercato di proporre un'idea, quella idea di introdurre delle capacità ben precise, logico-argomentative all'interno della scuola attraverso l'insegnamento di cittadinanza e costituzione. Ecco, in questo devo dire, ho fatto un bel po' di domande a Stefania Giannini, partendo da qui, partendo dalla discussione che avevamo fatto anche con Martha Nussbaum, la grande filosofa americana, è venuto fuori un bel ritratto molto ampio, in cui il ministro insiste sul fatto che l'Italia deve puntare molto su una knowledge based education più che su skill based, come invece più consono ai paesi anglosassoni, perché questa è stata la nostra forza anche dal punto di vista storico. Dobbiamo quindi appunto insistere su questo. questo e migliorare in questo, naturalmente senza negare tutti i problemi che appunto il governo sta cercando di essersi burocratici. Sì, posso farti una domanda, Armando, visto che hai avuto questo privilegio di fare questo colloquio con il ministro Giannini, che all'inizio della sua avventura aveva detto: non sarò uno di quei ministri che fa riforme contro riforme, perché la scuola ha bisogno di sedimentare, di continuità, e cercheremo quindi, facendo quello che c'è da fare, però di non rivoltare come un calzino ogni volta e si torna sempre da capo. Hai la sensazione che anche l'orizzonte temporale del ministro Giannini sia quello di una riflessione di stabilità, no, per la scuola, cioè di questo tipo di orizzonte ampio, che credo sia giusto dirlo, è necessario, no? Sì, da questa intervista emerge proprio questo. Il titolo che infatti gli abbiamo dato è coltivare la scuola responsabile, no? Cioè riuscire a introdurre elementi appunto di responsabilità, proprio sbloccando magari gli eccessi burocratici, realizzando davvero l'autonomia, introdurre il merito, e poi con un'ispirazione di fondo che è quella poi che si riassume in questa frase di Don Milani: la scuola rende uguali perché restituisce a tutti la parola. E cioè, quindi insomma, c'è in questa intervista sì, c'è un respiro di lungo periodo, anche quando si parla di problemi concreti, perché quando si parla per esempio dell'insegnamento, c'è stata una grossa polemica su questo, sull'insegnamento delle lingue, ed una domanda verte proprio su questo. Diciamo che la risposta del ministro è che per mettere a regime questo insegnamento, soprattutto dell'inglese, nella scuola ci vorrà del tempo, e qui si tratta appunto di non fare, di non pensare che tutte le riforme producano effetti dei risultati in 5 minuti. In 5 minuti, quindi insomma c'è l'idea che effettivamente, come dicevo all'inizio, basandosi su qualcosa che c'è già, cioè un modello basato sulle conoscenze, sull'approfondimento, sui saperi, poi va quello rafforzato e reso poi sempre più operativo, superando i problemi che ci sono, ma sono tutte idee peraltro che esistevano già. Questa dell'autonomia, si tratta semplicemente di realizzarla, sono idee che magari appartenevano alle riforme precedenti, ma non sono mai state compiutamente. Esatto, anziché scartarle, magari è giusto coglierne il meglio e provare a realizzarle. Ti do il countdown, manca quasi un minuto, poco più. Il countdown, se vuoi una frase che ricentra poi, se vogliamo, dal mio libro, da Istruzioni per rendersi felici, ti dico proprio quella: non brancoliamo nel buio come ubriachi, ritroviamo la chiave della nostra vita nelle parole della filosofia. E questo è un po' ecco, una specie tac, di... così. Ma ritroviamo soprattutto, tornando invece al domenicale, essendo anche più seri, c'è un piccolo articolo a fianco di quello dell'intervista di Gabriele Lolli, un grande logico, che ha mandato un intervento che abbiamo intitolato "Chi più sa meglio insegna", perché una delle questioni è che si dice che le persone che si laureano oggi poi non sanno insegnare, no? Nessuno gli insegna a insegnare, e lui mostra in maniera molto acuta come appunto più uno sa, più uno ha studiato, più uno è entrato nel merito dei saperi dell'università, più poi è in grado anche di capire al volo le esigenze educative dei ragazzi. Grazie Armando Massarenti, ci ritroviamo domenica prossima con il domenicale. Buona domenica invece con gli ascoltatori di Si può fare. Ci risentiamo subito dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buona domenica a tutti, ben ritrovati. 800 24 00 24 numero verde, cominciate a prenotare il vostro intervento per dire tutto quello che volete, commentare quello che sentite. Naturalmente abbiamo dato un'occhiata ai giornali di oggi come sempre, poi i nostri approfondimenti. Tra poco parleremo delle trivelle in azione in Basilicata. Sì signori. Insomma, è una cosa interessante, una cosa che avviene anche un po' sulla testa, come già accade anche in altre situazioni delle popolazioni locali, perché le autorizzazioni adesso si bypassa la regione con lo sblocca Italia, le autorizzazioni passano direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Ci sono diverse popolazioni, sindaci che si stanno già mobilitando contro la possibilità di trivellare per trovare il petrolio. La zona della Basilicata è già la prima zona di produzione del petrolio in Italia, ma siccome ci sono anche due importanti parchi nazionali, si teme un po' anche per questi aspetti, no? E vedremo, ne parleremo tra poco. 800 24 00 24. Anche perché insomma il discorso del petrolio con la Libia incendiata alle porte torna un po' d'attualità. Carlo? Io, scusami, adesso sono un po' triste, affranto, per la notizia di Luca Ronconi, che è mancato, un gigante del teatro che l'8 marzo avrebbe compiuto 82 anni, quindi non un ragazzino, però veramente una figura fondamentale del teatro italiano. A tutto tondo, come si suol dire. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, non di lavorarci come attore, ma di assistere a sue analisi del testo, e ho un ricordo suo straordinario, quindi sono. Però adesso non mi faccio prendere dalla tristezza. Ecco, volevo semplicemente dire questo, volevo salutarlo e ricordare. Allora, poi noi naturalmente anche oggi vogliamo giocare con voi, cari ascoltatori, e assegnare quest'oggi il catalogo della mostra di Chagall, che si è conclusa a Milano, ma restano alcuni prestigiosi cataloghi che vogliamo assegnare a chi indovinerà il nostro personaggio della settimana. Io andrei subito, quasi quasi, con il primo indizio. Va, me lo sparo subito, vado? Vai, assolutamente sì. Allora, il primo indizio di oggi è che il nostro personaggio, nonostante abbia una faccia da Oscar, non l'ha mai vinto. Va, così. 800 24 00 24. Quale giorno migliore per dare un indizio di questo tipo, genere, visto che stanotte consegnano gli Oscar. Esatto. Allora, che facciamo? Andiamo ad iniziare. Vai. Senza petrolio è come se finisse il vino a mio nonno. Noi senza petrolio, l'Italia è in crisi, e la crisi è questo imbroglio. La situazione non va. Va bene, vengo a prenderti amore mio, ma sono a 1,40 km e 30 me ne mancano a te, ma dove vado io? Senza petrolio è come se finisse la mia nonna l'aglio. Noi senza petrolio, l'Italia è in crisi, e la crisi è questo imbroglio. La situazione non va. Alla fine dell'anno, il 31 dicembre 2014, in Basilicata erano presenti 10 permessi di ricerca per l'estrazione del petrolio, per un totale di 1.357 km2, 26 comuni interessati. Le istanze di permesso di ricerca sono invece 18 complessivamente, riguardano i comuni lucani di Grumento Nova, Lago Negro, Moliteno, Sarconi, Castel Saraceno, Spinoso e Lauria. Siamo tra l'altro nelle zone dove ci sono due importanti parchi nazionali. In totale sono 93 i comuni della Basilicata interessati tra permessi di ricerca e istanze di permesso di ricerca. Le novità dello Sblocca Italia, se abbiamo capito bene, sono che adesso per avere queste autorizzazioni si passa direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, bypassando i pareri della regione. Ne cerchiamo di capirne qualcosa di più parlandone con il sindaco di una di queste città, Antonio Imperatrice, sindaco di Grumento Nova. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. E buona domenica. Grazie. Allora, intanto diciamo se è corretto quello che ho detto io fino adesso, per quello che ne sa lei, sindaco. Il suo, tra l'altro, è uno dei comuni coinvolti. Sì, è corretto. A fine dicembre è stato approvato questo decreto ministeriale che di fatto, se non concorrono altre modifiche, in realtà espropria le regioni e soprattutto i comuni della possibilità di scegliere per i propri territori. La nostra è una regione già abbastanza petrolifera, forniamo il 12% del fabbisogno nazionale di petrolio, il resto viene importato. Crediamo che come piccole comunità già stiamo dando tanto, ma ovviamente rivendichiamo la possibilità di poter scegliere e poter dire la nostra su quella che può essere, insomma, l'uso più razionale del nostro territorio. Senta, il 12% di contribuzione da parte di queste zone al fabbisogno di petrolio nazionale non è poco. Al momento, prima di andare a parlare delle nuove possibili trivellazioni, ci dice se questo è compatibile anche con, dal vostro punto di vista, con l'ambiente, con il rispetto dell'ambiente, della salute anche delle persone in una zona come quella della Basilicata, che rappresenta un po' anche un polmone verde con due importanti, almeno credo io, parchi nazionali da quelle parti? Senta, la nostra posizione nella zona in cui si sta di più è molto semplice, siamo 10 sindaci, ci stiamo coordinando e crediamo che la compatibilità si è aggiunta al massimo, insomma, dell'estraibilità possibile. Nel senso, cioè, voi dite stiamo già dando un contributo importante, no, più di questo già no? Dando, è una realtà, non viviamo sulla Luna, sicuramente non si può dire non dobbiamo estrarre più, però sicuramente siamo per una maggiore gradualità dell'estrazione, siamo a 80.000 barili al giorno. Non credo che piccole comunità come la nostra, nei 10 comuni facciamo 28.000 abitanti, ecco, solo per dare anche un dato, si possa concentrare ancora di più, insomma, l'intero fabbisogno nazionale, per essere molto Fino ad oggi, sì, fino a che con lo sblocca Italia non sono state previste queste nuove norme e quindi si è cominciato a parlare di nuovo di allarme per l'ambiente, di no-triv, cioè di critiche a questa possibilità, diciamo, a questa sorta di deregolamentazione che c'è stata sul tema della estrazione del petrolio dalle vostre parti, non solo, tra l'altro, perché riguarda anche la Sicilia. Non si parlava molto di questo tema del petrolio in Basilicata, pur essendo, come lei ci sta ricordando, diciamo, importante il contributo che voi già date. Quindi fino a questo punto sono stati più i vantaggi degli svantaggi. Quali sono i vantaggi di un comune come il suo, per esempio, dal punto di vista economico, che sono concessi da questi permessi di estrazione e dall'estrazione stessa? Ma guardi, le estrazioni sono iniziate nel lontano 96. Ovviamente c'è stata una gradualità ed ovviamente per i comuni dove insistono le estrazioni ci sono dei ritorni economici. Un mio comune di 1.700 abitanti percepisce all'anno 2.600.000 euro di royalty extra bilancio, che sicuramente possono contribuire a migliorare le nostre attività e sicuramente danno buon ossigeno a quello che è un bilancio comunale. Ma questo è, e sicuramente non è che in nome di quelle che potrebbero essere, ecco, solo per essere più chiari, maggiori introiti comunali e perfino regionali, si possa, insomma, cospargere il nostro territorio di trivelle e di pozzi di estrazione. Abbiamo anche un centro olio nella nostra valle che fa una prima lavorazione, non è assolutamente una raffineria perché il tutto viene raffinato a Taranto, la raffineria Eni, però sicuramente noi chiediamo, in quella che è stata una gradualità, la compatibilità sta proprio in questo, cioè non si può raddoppiare solo perché c'è maggior bisogno, anche perché vorrei ricordare anche a chi ci ascolta e anche a chi ci governa, non solo in Basilicata c'è petrolio, cioè sull'intera catena appenninica italiana, sicuramente non si può chiedere solo a questa regione. Però ci tolga un dubbio, no? Perché sì, uno potrebbe dire il sindaco di Grumento Nova già, diciamo, incassa questi 2.600.000 all'anno di royalties per l'estrazione del petrolio, adesso si inserisce nella battaglia per non andare oltre, per non trivellare di più, tanto comunque i suoi guadagni li sta già facendo. Non è così, perché guardi, il fatto che in Basilicata alla fine di dicembre 80 comuni della provincia di Potenza, ne siamo 100, in Basilicata solo, almeno in Val d'Agri, solo 5 comuni percepiscono queste royalties, sì. Il fatto che abbiano deliberato 80 comuni per far sì che si impugni alla Corte Costituzionale il decreto, credo che insomma sia sintomatico non solo di un egoismo comunale relegato ai propri cioè anche, comunali, anche i comuni che stanno a fianco al suo, pur sapendo che voi guadagnate questi soldi, dicono non ci interessa. Ma perché ci sono delle ripercussioni sull'immagine, sicuramente non si può estrarre più di tanto perché siamo piccole comunità, e anche perché più si estrae meno dura anche il periodo di estrazione, e l'economia andrebbe in stallo nel momento in cui si arriverebbe insomma in breve tempo a quello che l'esaurimento dell'intero giacimento petrolifero. Cioè, preferite avere le royalties diciamo per più anni piuttosto che averle più alte ma per meno anni? Siamo per una gradualità, perché nella gradualità c'è il mantenimento di un'economia, c'è una compatibilità anche sul territorio, perché se oggi abbiamo circa 35 pozzi, immagini lei che significa averne il doppio, il triplo, insomma, ecco, anche da un punto d'impatto visivo. E invece per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente delle vostre aree, fino ad oggi diciamo tutto è filato liscio? C'è un monitoraggio attento da parte della Regione Basilicata, ma come lei potrà comprendere con realtà così importanti da un punto di vista economico, anche di impatto, ovviamente c'è un adeguamento a step. Ci sono stati dei problemi e si verificano diciamo ogni tanto in quelle che sono delle, come si può dire, c'è un centro olio che funziona dove viene da prima un primo trattamento, vi sono ogni tanto delle anomalie che insomma ci hanno preoccupato. Che tipo di anomalie ce lo vuol dire? Fondamentalmente si tratta di momenti in cui questo trattamento va in stallo e vi sono delle intorce, si vedono ovviamente delle fiammate che incrementano quella che è l'emissione in atmosfera, però i dati sono seguiti puntualmente sia dall'ARPAB che l'agenzia regionale. Ma lei parla, scusi, di fiammate attorno ai pozzi o anche in zone dove No, non attorno ai pozzi, no. Al centro Oli di Viggiano, perché sì, lì avviene il primo trattamento, e ovviamente ci sono dei camini con dei sistemi di sicurezza che nel momento in cui vi sono anomalie bruciano in atmosfera quelli che sono ovviamente i fumi. Sindaco, di episodi sporadici, lo voglio insomma anche dire, perché generano anche ovviamente un minimo di ansia che lei potrà comprendere. A questo punto, sindaco, la vostra diciamo proposta, la mobilitazione di questi di questi comuni, questi 80 comuni, qual è e a che cosa mira? Mira a far sì che nelle scelte energetiche, che sicuramente sono di ambito nazionale, la parola dei comuni e delle istituzioni locali possa avere il suo peso, perché ovviamente il territorio è gestito ed è vissuto soprattutto da chi ci abita, e ovviamente questo viene compendiato anche da una maggiore gradualità dell'estrazione, da una compatibilità che è condizio sine qua non, questo non avviene. Perché fino ad oggi voi dite, se siamo riusciti a fare queste estrazioni di petrolio, a contribuire per il 12% al fabbisogno nazionale, si è fatto diciamo coinvolgendo anche le enti locali eccetera. Adesso con lo sblocca Italia passare sopra la regione per voi è intollerabile, perché fino ad oggi diciamo tutto è filato abbastanza liscio anche grazie al coinvolgimento degli enti locali. Questa rivoluzione non vi sta bene. Sicuramente non ci sta bene. Vorrei ricordare che il presidente del consiglio attuale, quando era presidente della provincia di Firenze, benefice, lo dico tranquillamente, negò i permessi di estrazione alle compagnie petrolifere nella propria provincia. Ah. Cosa che non accadrebbe oggi. Cioè non accadrebbe oggi perché non potrebbe farlo? Il problema sono i ruoli che si esercitano ovviamente. Cioè quando Renzi era presidente della provincia, che cos'è che fece? Negò i permessi di prospezione, significa, le spiego, prima di procedere a quella che è l'estrazione, ovviamente le compagnie petrolifere, faceva riferimento lei a richieste di nuove concessioni, studiano il territorio facendo insomma delle indagini prospettive, che mettono in evidenza se quel territorio ha un bacino petrolifero nel proprio sottosuolo, cosa che è stata fatta agli inizi degli anni, alla fine degli anni '80 nella nostra regione. In quel tempo, quando era presidente della provincia, Renzi negò, giustamente devo dire, considerata la vocazionalità della Toscana, questi permessi di prospezione. Certo, ma mi scusi, io sono l'ignorante dei due, ma le volevo chiedere una cosa: voi avete una stima su quanto sia grande questo giacimento? Cioè, in teoria questo giacimento potrebbe anche coprire il 50% del fabbisogno o addirittura il 100%? Ma veda, il problema è il più grande giacimento dell'Europa continentale. Ovviamente tutto sta, come le devo dire, all'intensità di estrazione, ai punti in cui si aprono i rubinetti, per capirci. Cioè l'intero Appennino ne è ricco, ora, e non è solo lucano, attenzione, la vicina Campania, noi che siamo a 20 km, si chiama Vallo di Diano per la precisione, non ha concesso alcun permesso di estrazione e ne è ricca anche lei. Il problema è, non si può, insomma, concentrare in una piccola valle, in un piccolo territorio, tutta il fabbisogno estrattivo italiano. No, ma questo mi è chiarissimo e ha ragione, la capisco. Basterebbe triplicare per arrivare al 36%, nel triplicare significherebbe adeguare gli impianti industriali che abbiamo a valle e quindi il centro di primo trattamento dell'olio, ma insomma diventerebbe ovviamente un qualcosa che non sarebbe più compatibile. No, certo, cioè lei dice si potrebbe aumentare l'estrazione non estraendolo tutto in Lucania, per esempio, giusto? Esattamente, invece le altre regioni hanno detto di no. Certo, no, io volevo capire se addirittura potevamo essere energeticamente indipendenti, che sarebbe una novità. C'è sempre stato detto fin da scuola, dal sussidiario. Io credo che nessuno vuole essere ipocrita, io in primo luogo, rappresentando una comunità, però sicuramente non si può fondare una politica energetica nazionale, anche territoriale, solo e soltanto sulle fonti fossili, insomma. Certo, bisogna giustissimo. In ricerca bisogna guardare non giusto. Al proprio naso, ma alla luna. Insomma, infatti fra poco parliamo di canapa, per dire, quindi non solo il petrolio, dove c'è un distretto importante. Sono un agronomo, so che cos'è la canapa. Esatto. C'è la fiera della canapa a Roma, parleremo di questo, uno dei distretti è proprio in Lucania e quindi, come dire, anche due modelli di economia a confronto. Intanto grazie al sindaco. Stavo dicendo, sono uno scapestrato, so anch'io che cos'è la canapa, ma mi sembrava una battutaccia, ho sbagliato. Grazie Antonio Imperatrice, sindaco di Grumento Nova, questo era il punto sulla situazione per quanto riguarda le trivellazioni di petrolio in Basilicata. Avete sentito i comuni che adesso chiedono al governo di rivedere questa normativa dello sblocca Italia. Tra l'altro il sindaco ricordava che quando Renzi era presidente della provincia negò le autorizzazioni per l'estrazione del petrolio nella sua provincia. Ogni sindaco e ogni amministratore locale su queste cose normalmente è contrario. Ma non lo so contrario, perché comunque abbiamo appena sentito che ci sono delle royalties d'estrazione, ci sono dei guadagni, diciamo, però non irrisorie, ecco. 800 24 00 24, ascoltatori, che cosa ne pensate? Se siete della Basilicata, ma anche no, non importa, ci sentiamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Adesso, dopo aver sentito uno dei sindaci, non possiamo definirlo esattamente no triv, perché già lì si trivella, no? No triv, Nova. Però è bello, è un bel. Diciamo un sì, bel ma non troppo, sì, ma non troppo. Perché adelante, ma con giudizio, direi. Sì. Però ci sono un'ottantina di comuni della Basilicata che sono sul piede di guerra, tra i 93 che sono interessati da questi permessi di autorizzazione all'estrazione del petrolio e che sono, diciamo così, sul piede di guerra, vogliamo dire così. Ma io sono. Temono delle ripercussioni. Sono molto stupito, devo dire, questo fatto che abbiamo addirittura il petrolio e che si dice che ne abbiamo tantissimo. Ha detto gli Appennini ne sono strapieni. Sì, non lo sapeva nessuno. Ma non so, no, io quando lo studiavo da ragazzino, no, noi avevamo un grosso problema energetico, infatti, anzi, dovevamo questo usare le nostre fonti. Tu hai studiato prima del 99, anno nel quale si è iniziato estrarre il petrolio dalla Basilicata. Prima del 1899, ovviamente, ho iniziato a studiare. Allora, dunque, 12% è la quota di petrolio sul fabbisogno nazionale che arriva dalla Basilicata. Non è poca roba. Riepiloghiamo: il governo con lo Sblocca Italia ha diciamo dato mano libera alle autorizzazioni che saranno vagliate dal Ministero per lo Sviluppo Economico e non dalla regione, dagli enti locali, e questa cosa preoccupa i comuni. Laddove già si trivella e si guadagna anche con questo, ma anche laddove non si trivella e si potrebbe guadagnare, questo va detto, cioè non è solo una questione di royalties. Abbiamo Elena che ci chiama da Monza, intanto buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Molto bene, grazie. Lei come sta? Io bene, vi devo ringraziare perché siete una radio fantastica. Va bene, grazie. No, sì. Davvero. Grazie davvero. Mille. Adesso li svegliamo tutti. Aspetti, tutti quanti, tutti chi per esempio? Allora, io vi seguo molto, vi seguo anche sì. di notte, perché quando mi sveglio di notte, alle 3 di notte, con buona pace di mio marito, accendo Radio 24, per cui spesso sento anche le repliche. Cioè, nel senso che suo marito dorme e lui gli accende la radio sull'orecchio? E ormai si è suefatto e lui riesce a dormire e io intanto vi sento. Ma, scusi, ma lo sa quando lei accende la radio alle 3, noi veniamo chiamati a casa e corriamo in radio per fare una trasmissione apposta per lei, quindi è una bella responsabilità. No, scusi, però non ho capito una cosa, Elena, ma gliela accende la radio in camera mentre suo marito dorme? Non può andare in cucina? Sì, no, perché io ho sempre l'auspicio di riprendere a dormire. Certo. Quindi accende la radio mentre il marito dorme, però questa è una tortura. Sì. E così lei si addormenta e il marito invece si sveglia, è perfetto. No, invece no, davvero, perché a me poi alla fine riesce ad addormentare, lui non si sveglia. Ormai veramente siamo... Chissà che incubi farà la notte ascoltando Radio 24 no, dopo, poveri. Non è vero, perché riesco anche a imparare, perché siete molto tra la rassegna stampa, Alessandro Milan, Cruciani, voi, sabato e la domenica. Grazie. Veramente, siete mischiate, no, sembra... Mischiate intrattenimento, inchiesta, cultura in un modo notevole e sapiente. Mamma veramente. Mia, guarda, ci stiamo alzando da terra qualche centimetro. No, rimanete lì e non mollate. Grazie mille. Cosa voleva intervenire, Elena? Io provo a dire, a rispondere al quiz della faccia da Oscar. Perfetto. E allora, io direi Brad Pitt. Primo perché mi sembra che non abbia mai vinto l'Oscar e poi perché mi è sembrato che abbiate messo enfasi nel termine faccia e a me sembra che lui abbia un po' la faccia della statuina dello zio Oscar, del ben noto che lo ideò a suo tempo. E quindi mettendo insieme le due cose direi Brad Pitt. Poi dopo, se è vero, bene, se no felice di avervi salutato. Ci ha fatto talmente tanti complimenti che noi siamo contentissimi che lei abbia chiamato. Però non era lui. Non era lui. Ecco, va bene. Fa niente. Grazie mille, Elena. Eccellente, grazie a voi. Grazie. Di tutto. Buona domenica, giornata. Naturalmente. E allora andiamo con un altro ascoltatore, chissà se vuol giocare o commentare la questione del petrolio. Danilo da Lecce, buongiorno. Salve, buongiorno a voi, è un piacere essere alla radio con voi. Grazie, anche per noi. Allora, io volevo rispondere al quiz della faccia da Oscar, secondo me vado subito al sodo, è Leonardo DiCaprio, perché è risaputo che non ha mai vinto l'Oscar, anche essendo stato candidato per più di 4 volte, se non erro. Sì, è il più famoso, direi, non vincitore dell'Oscar, sicuramente degli ultimi anni, perché tutti gli anni ci si chiede ce la farà o non ce la farà, però il personaggio non era lui, diciamo che è caduto nella nostra trappola, perché ci aspettavamo delle risposte su DiCaprio. Va benissimo. Grazie mille per aver chiamato. Grazie, buona domenica. 800 24 00 24, tra poco daremo anche un altro indizio. Adesso, come detto, possiamo passare restiamo in Basilicata in qualche modo, da un capitolo all'altro. Abbiamo annunciato un distretto della canapa anche da quelle parti, in Basilicata, però oggi l'appuntamento è a Roma per la fiera Canapa Mundi e lì andiamo. Don't divide la bagni e cresce a maggiore femmine, maschi separi, a giugno si riempie di fiori. E allora, l'abbiamo già detto, l'appuntamento è al Pala Cavicchi di Roma fino alla giornata di oggi, si è svolta venerdì, sabato e domenica, Canapa Mundi, la fiera internazionale della canapa, appunto organizzata dall'associazione Tuanis, dedicata alla canapa. Ne parliamo con l'organizzatore Silvio Saraceni, buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno. Ma è naturalmente uno degli organizzatori, perché non si organizza nulla. Sì, infatti. Beh, quanti... soprattutto sulla canapa, diciamo. Perché? Beh, perché la canapa bisogna condividerla. L'organizzazione è legata alla socialità, assolutamente. È un rito collettivo. Ma intanto però chiariamo una cosa, di che canapa stiamo parlando, Saraceni? Ma qui in questa fiera, veramente a 360 gradi se ne parla, ma si parla anche dell'uso terapeutico, ludico, rilassante, sì, come vogliamo chiamarlo. Tra l'altro questa è una cosa su cui sono fatti passi in avanti importanti in Italia recentemente, Sì, purtroppo ancora molto parziali, molto lenti e ancora un po' a chiacchiere. Cioè, c'è, diciamo, l'autorizzazione in alcune regioni, credo la Puglia sicuramente, la Toscana mi pare anche, forse il Veneto. Stiamo parlando dell'uso terapeutico. Dell'uso terapeutico, sì, però certo. Diciamo, non è ancora stato sbloccato, in questo caso lo sblocca Italia non è arrivato, la possibilità di produrla, bisogna ancora importarla dall'Olanda, è così? Sì, certo, e comunque anche in quelle regioni dove è consentito spesso mancano i regolamenti attuativi, sì, o comunque sempre una procedura molto difficile, farraginosa e difficilmente anche va a buon esito. Molte persone o per paura, per ignoranza, in uno dei passaggi necessari per l'ottenimento della cannabis a uso terapeutico si blocca a un certo punto. Invece voi a Canapa Mundi su questo che punto di vista avete? Che tipo di... Certo, sì, così, come dicevo, ne abbiamo parlato, anche ci sono anche banchi che vendono semi di canapa con potenziale uso terapeutico, e c'è stato anche un interessante partecipatissimo incontro ieri che ha parlato proprio del CBD e di altri cannabinoidi, dei componenti attivi o i terpeni o flavonoidi presenti nelle infiorescenze di cannabis. È stato fatto con la presenza e la testimonianza di associazioni di pazienti che hanno parlato in prima persona e anche di ricercatori. È veramente molto bello, è stato ieri mattina. Però quando parliamo di canapa, naturalmente si pensa a quello, si pensa, diciamo, sì, alla canapa, alla cannabis da fumare, la cosa che salta, sì, di più agli occhi, ma la canapa è tantissime altre, quella che naturalmente, diciamo, al momento in Italia non è legale. E si rischia di dimenticare, di oscurare tutti gli altri tutto il resto. Usi che ha la canapa, che sono incredibili. La canapa è un prodotto antico, tradizionale, proprio in Italia, che oggi sta vivendo una seconda giovinezza, si riscoprono delle qualità incredibili, alimentari, ma anche per l'edilizia, per un sacco di cose. Ci vuoi fare intanto un elenco, così poi dopo approfondiamo? Guarda, faccio intanto una premessa a proposito del rapporto antico veramente che l'essere umano in genere ha con questa pianta. Cannabis è una parola latina e quindi anche qua in Italia sono millenni che comunque questa pianta è presente, comunque in genere nel mondo è una delle piante più antiche, interessanti, rustiche anche, che esiste. Riguardo gli usi, veramente sono tantissimi, ho sentito prima, parlavate anche della Basilicata, pensa, c'è un'associazione Lucanapa che ha il suo banco e un'altra ancora che vende prodotti che si chiama Canapa Lucana e che produce semi di canapa e ha organizzato decine di agricoltori sul territorio, piccoli agricoltori, che conferiscono la produzione di seme e producono olio di semi di canapa, farina di semi di canapa e poi derivati come pasta, pane, taralli. Sì. E cosa ci si fa per esempio con l'olio di semi di canapa? Lo si consuma, è edibile, è buonissimo. Ma come fosse olio d'oliva? Oppure si usa per friggere? No, per friggere non è assolutamente per condire, sì, l'olio di semi di canapa. A crudo, perché ha molte proprietà, ha sali minerali, ha vitamine, ha proteine vegetali, omega 3, omega 6, e altri componenti, ed è un alimento. E quanto può costare un litro d'olio di semi di canapa? Tanto ancora costa tanto, proprio anche, pensate che la produzione in Italia è stata consentita dal 2011. Prima si poteva, se riuscivi a trovarlo, consumare, veniva importato in piccole parti dalla Germania o da altri paesi. Adesso dal 2011 finalmente anche in Italia. Ma lì alla fiera si trova, lì alla fiera si trova quest'olio, sì, per sono, condire. Ci sono molti banchi. E non ha THC? No, contiene il THC o no? No, è privo di THC, ma perché i semi, anche se fossero semi di piante con THC, sì, il seme non ha questo componente al suo interno. È incredibile, però, che fino a poco tempo fa potevi importare l'olio di semi di canapa dalla Germania e non si poteva fare in Italia, paese nel quale la canapa c'è sempre stata, ed è un pezzo di economia che si perde, è una follia assoluta. Però la cosa interessante, che mi ha colpito moltissimo, è i mattoni di canapa, l'edilizia fatta con la canapa, sono già state costruite e stanno costruendo in Puglia delle abitazioni, credo sia una cosa sperimentale, ma le stanno edificando. Adesso ne parliamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Siamo in compagnia di Silvio Saraceni, uno degli organizzatori della fiera Canapa Mundi, che si svolge ancora oggi. Fino a che ora al Pala Cavicchi di Roma? L'entrata è consentita fino alle 19. Ah, ok. E poi si sta dentro fino a mezzanotte, però. Come? E poi si sta dentro fino a mezzanotte, fino alle 19.30. Stavo scherzando. E volevo anche ringraziarti molto per aver ricordato che cannabis è una parola latina, perché siccome tutti pensano che sia una parola giamaicana, mi sembra giusto sottolineare questa questione. Allora ricordiamo anche la petizione Dillo in italiano, che mi piace molto, che online si può firmare. Non vorrei peggiorarla e farla diventare addirittura Dillo in latino, perché poi a un certo punto diventa impossibile comunicare anche. Silvio, la mia curiosità in particolare è sull'uso che si può fare della canapa in edilizia, che è una cosa, per quanto mi riguarda, nuova, una novità, ma che sembra che abbia delle proprietà davvero importanti. Sì, come no, ci sono molte aziende che stanno provando a sviluppare prodotti edili a base di canapa, e mischiata con la calce soprattutto ottiene degli ottimi risultati. Si possono fare mattoni, si possono fare pannelli che sono coibentanti, fonoassorbenti e soprattutto non inquinanti, perché vanno a sostituire in parte il cemento, che è altamente inquinante a causa delle cave da cui si ricava o dai camion che devono trasportarlo. E quindi è molto interessante, c'è anche su questo c'è una rappresentanza del settore in fiera, c'è la Edilcanapa con dei mattoni in esposizione. Ma addirittura se non ho capito male, esiste un biomattone fatto di canapa che assorbe la CO2. È vero questo? Su questo mi trovi un po' impreparato, non te lo so dire, non te lo so confermare, e oggi proverò a informarmi anche presso Edilcanapa e altre persone che ne sanno di più. Perfetto. Di sicuro è un mattone veramente interessante, resistente, leggero, ma appunto molto forte allo stesso tempo. E si produce proprio mescolando lavorazione dello stelo della canapa con calce. Questa è una degli utilizzi migliori, ma altri ancora ce ne sono. Ma anche perché può anche sostituire i carburanti. Scusa, ti chiediamo questo perché abbiamo appena parlato di petrolio, di estrazione di petrolio in Lucania, e sappiamo che la Lucania è un posto ideale per coltivare la canapa. Così recita il comunicato stampa. Sì, in effetti le esperienze che abbiamo avuto con queste associazioni e ditte agricoltori che stanno sviluppando questa coltivazione lo conferma, è una delle regioni che più si sta muovendo su questo, e così come è vero che può essere anche un combustibile, anche se per nutrire tutte le macchine che sono in giro servirebbero pianeti e pianeti di coltivati. Però è vero una cosa, che la produzione della canapa è una di quelle in agricoltura, diciamo, che ha una efficienza più alta, cioè nel senso che sì, certo. spiegaci. Sì, cresce molto velocemente, una delle piante che ha maggiore produzione di biomassa e quindi anche appunto di cattura di anidride carbonica e di cellulosa, e proprio con la cellulosa anche, molto interessante per questo, la canapa, la grandissima produzione di cellulosa che ha potrebbe portare a produrre tantissime cose, tra cui anche plastica e tra cui naturalmente anche la carta, che pensate che su un ettaro coltivato a canapa per fare carta potrebbe sostituire 4 ettari di bosco, di foreste tagliati per fare lo stesso quantitativo. E questo è uno degli aspetti dell'alta efficienza della canapa, di cui ho sentito parlare. E insomma, è un'economia che si sta muovendo. Oggi ne fate il punto a Canapa Mundi a Roma. Grazie per essere stato con noi, Silvio Saraceni. Grazie mille. Grazie a voi per l'attenzione e complimenti. E buona canapa a tutti. Buona canapa a tutti. Vi ricordo il contatto canapamundi.com. Perfetto. Grazie. Grazie di nuovo. Per fare una battuta, certo che abbiamo anche chiamare la domenica mattina al Festival della Canna non è un... Però ricordiamo che non è il Festival della Canna, ricordiamo, visto che prima ho parlato di THC, il THC è il principio attivo che all'interno della canna, diciamo, certo, rende la canna, certo, la cannabis una sostanza, esatto, psicotropa, ma si può anche produrre senza il THC ed è una sostanza invece utilissima ed è un materiale che, come abbiamo sentito, si può usare per un sacco di cose che andrebbe coltivata. Abbiamo Damiano che ci chiama da Brescia all'800 24 00 24. Buongiorno. Salve, buongiorno, chiamo da Fasano, provincia di Brindisi, in Puglia. Buongiorno. Mi hanno informato male, mi scusi Damiano. Allora andiamo in Puglia, dove tra l'altro si produce la canapa. E tra l'altro sono anche un agronomo, quindi ci ho qui in casa due volte. Ecco. Volevo intervenire in merito al discorso delle estrazioni petrolifere in Basilicata. Sì. La paura è quella che questo sblocca Italia, così come anche le esplorazioni che stanno avvenendo attraverso le coste pugliesi, porti ad assumere i territori locali delle scelte che ci cadono dall'alto. E pare quasi che questo governo voglia un attimino prendere come proprie decisioni le cose belle o economicamente convenienti e poi scaricare sugli enti locali le difficoltà, le tassazioni e le cose che non vanno. In merito invece al viso da Oscar, avevo pensato a Tony Servillo. Bellissima risposta. Tony, per quale Servillo? Motivo, quale notizia della settimana su Tony Servillo? Ecco, questa mi sfugge. Ah, vedi. Allora Damiano, intanto grazie. Era preparatissimo su tutto il resto. Intanto quindi... grazie per aver partecipato. Però ricordiamo che il personaggio deve avere una notizia, il personaggio della settimana. È una notizia della settimana, è il motivo per cui lo scegliamo. Vabbè, però gli attori hanno tutti una notizia questa settimana, o sono o non sono agli Oscar, e direi che la notizia ce l'hanno. Non essere agli Oscar è un po' una non notizia. Ines da Brescia, buongiorno. Questa volta da Brescia, davvero o per scherzo? Davvero, sono io. Vai. Buongiorno. Pronto, ciao. Su cosa volevi intervenire, Ines? Allora, sulla faccia da Oscar. Chi è? Secondo me potrebbe essere Michael Keaton. Dicendo Buster Keaton? Sì, perché infatti avremmo apprezzato moltissimo anche Buster Keaton comunque. Esatto. Perché Michael Keaton? Perché bravissimo, simpatico e perché forse anche lui non ha mai vinto un Oscar. Ah, e la notizia della settimana sarebbe sempre la notte degli Oscar, anche nel caso di Michael Keaton, credo. Beh, candidatissimo lui. Candidatissimo. Esatto, Ines. Sì. Non era lui. Grazie comunque per aver giocato con noi. 800 24 00 24. Riprendiamo a giocare dopo il giornale radio. Dovremmo dare un altro indizio, ma non c'è tempo. Lo diamo dopo, va? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa è Si può fare. Buona domenica a tutti. Quella che avete appena ascoltato è Sugar dei Maroon 5, canzone che ci è stata suggerita dalla nostra ascoltatrice Sonia De Luca. Vi ricordiamo che potete consigliarci, suggerirci i vostri cosiddetti Si può fare in musica. Noi cerchiamo delle canzoni che siano delle interpretazioni secondo voi di Si può fare. Ce lo potete comunicare sui nostri social, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è @siPuoFare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e quello di Alessio è @AleMaurizzi. Grazie, chiocciola Carlo. Davanti, ma ci mancherebbe altro. Stavo leggendo, perché ero distratto, perché stavo leggendo gli sms degli ascoltatori al 3498866. Ce ne sono un paio. Allora, una c'è, cioè, una Precisetti Chiara che dice: volevo precisare che il nome della canapa è in latino perché tutti i nomi scientifici degli organismi sono in latino. Va bene, brava Chiara, giusta precisazione. Noi pensavamo che invece quell'S finale fosse proprio un giamaicheismo, diciamo. Però a me fa anche molto ridere, sì. Anch'io vi ascolto di notte a letto in risposta a una telefonata che ci è arrivata di una signora che, esatto, fa sentire la radio a suo marito perché lei è insonne, quindi la accende e sveglia. E no, però, il marito in realtà non si sveglia e dice: anch'io, Carla, ascolto di notte a letto come la signora, però potete dirle che esistono gli auricolari, costano, giusto, anche poco. In effetti non ha tutti i torti, insomma, perché torturare, l'ho detto anche il marito, ma con la radio accesa, mentre si potrebbe mettere gli auricolari e non rompere, ma possiamo dirlo, le scatole. Ma no, è un potenziale ascoltatore, perfetto, lui lo sente di notte, poi il suo inconscio ascolta questo e quindi lui, sì, di giorno deve sentire Radio 24 per forza, quindi è ottimo, la signora è, diciamo, un'infiltrata nostra. Allora, poi ce n'è un altro non firmato che dice, questo è di quelli amarezza, no? Dice: un paese fallito di morti di fame che ha il petrolio e non vuole estrarlo, per forza annega nella M puntato, non si merita altro. Caro ascoltatore anonimo che non ti firmi, intanto firmati perché è più divertente dire il nome e la città dell'ascoltatore. Poi non è così, perché noi estraiamo il petrolio, ebbene sì, l'abbiamo detto già in Basilicata, il 12%, che non, beh, è poco, però lui, eh, giustamente dice, no, aspetta, se ce fammi finire, molto di più. Fammi finire. No, noi estraiamo già il 12% del petrolio del nostro fabbisogno in Basilicata, cioè non è poco, noi già estraiamo, quindi non siamo un paese fallito che non vuole estrarre, siamo un paese che discute in questo momento, almeno le comunità locali della Basilicata, se estrarne di più o di meno, non se... No, e soprattutto, soprattutto il sindaco ha giustamente precisato e dice: se ne può estrarre di più, ma forse non tutto in questi nostri 5 comuni, nel senso che, esatto, di petrolio ce n'è anche negli altri comuni. Per esempio, faceva l'esempio di Renzi, che ha vietato l'estrazione in della Toscana provincia di Firenze, nel momento che lui era presidente della provincia locale. Esatto. 800 24 00 24, cari ascoltatori, e voi che cosa ne pensate? Sentiamo Carlo che ci chiama da Fermo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. Io a differenza dell'ascoltatore, diciamo, del sindaco della Lucania, che laggiù vorrebbero estrarre petrolio, io invece ho qui vicino a Vendita, a 30 metri, hanno fatto un'estrazione di metano in passato, adesso vorrebbero rimetterlo dentro per l'approvvigionamento. Come rimetterlo dentro? Scusi Carlo, non ho capito. Dove sta lei? C'è un impianto di estrazione del metano? Stoccaggio. Ah, lo stoccaggio del metano, sì. E qui si fa delle manifestazioni, delle riunioni abbiamo fatto, non so fino a che punto ci riusciremo, comunque, perché siete contrari a questo? Per quale motivo siete contrari, per Carlo? Il motivo, perché quando abbiamo fatto queste riunioni a Sant'Elpidio a Mare, sì, ci sono, per il turismo? Come? Per il turismo avete paura che ci siano ripercussioni? No, guardi, le ripercussioni, a detta dei geologi invitati, sì, da noi, venuti in queste riunioni, vorrebbero dire che ci potrebbe essere fortissimi rischi sismici, di terremoti, di piccole scosse, siccome i rischi già ci sono sottoterra, vero? I rischi già ci sono, e lei dice forse non facciamolo in una zona sismica, perché qui da noi è un centro, non è un centro grandissimo, però qui è tutte case intorno. Ci dica una cosa però, Carlo, perché lo stoccaggio avverrebbe in sottoterra, è questo, sì, il punto? Certo. Ecco perché poi ci sono questi collegamenti possibili con piccoli fenomeni sismici. Vabbè, avete un'alternativa? Esiste un'alternativa? Non lo so qual è l'alternativa che si prenderanno questi superiori, ma qui ci stanno montagne, cioè a 40-50 km da noi, diciamo, ci stanno dei posti dove sono isolati, per cui non vedo il motivo per il quale qui addirittura passerebbero pure vicino a 10 metri dalle case. Cioè lei dice lo vadano a fare in zone disabitate? Non lo so, ma io penso che sia la cosa migliore. Diciamo, sulla carta sembra logico quello che lei dice. Carlo, vuol giocare anche al personaggio della settimana o ci salutiamo? Guarda, lì sì, io vi ringrazio che mi chiamate ogni mese sistematicamente, lì mi trovate impreparato. Non ce l'ha, non ce l'ha. Mi lascia dire un'ultima cosa? Sì. Certo. Allora, io vi ascolto da circa 6-7 mesi, perché noi qui abbiamo una nostra radio locale dove il titolare è un signore che è conosciuto in tutta Italia, e vi ascolta, guarda caso, quando non trasmette vi ascolta sistematicamente anche lui. Posso fare il nome? Ma certo. Allora, il dottor Giancarlo Guardabassi. E noi lo salutiamo molto. Che ha lavorato molto in radio e anche in ma tutto questo, scusi Carlo, per dire che cosa? Per fare il nome di... No, dico tutto questo per dire cosa? Per dire che io facevo parte di questa radio, ma da quando ho scoperto la vostra, qualche volta gli metto le corna. Bravo, è un tradimento, la domenica mattina. Continui a frequentare tutte e due le radio, va bene, in questo caso ci sta. Siamo a favore della bigamia, in questo caso. Esatto. Grazie, Carlo, buona domenica, buona giornata. Gianfranco da Bari. Sì, da Capurso, il paese di Checco Zalone, buongiorno a tutti. Buongiorno. E parla anche come Checco Zalone. No. Volevo partecipare al gioco, il personaggio della settimana. Sì, sì. Potrebbe essere, in riferimento alla nomination all'Oscar, Milena Canonero. Milena Canonero però ne ha vinti un numero incredibile di Oscar, se non ricordo male. Potrebbe essere il quarto, credo. E siccome il nostro unico indizio è che non ha vinto neanche un Oscar, direi che forse siamo lontani. Tra l'altro, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, ma abbiamo fatto la Canonero, no? Come personaggio della settimana. Abbiamo fatto qualche settimana fa. Però questo non esclude la possibilità, diciamo. No, diciamo che cerchiamo di non ripeterci così in breve distanza. Non era lei, ma siamo molto contenti di ricordare che tiene alta la bandiera italiana la Canonero, candidata all'Oscar. Ma Canonero o Canonero? Boh, io credo Canonero, però non lo so. Finché non mi arriva una circolare che mi obbliga a Canonero, io credo Canonero invece, vediamo. Sì, lei, diciamo, dopo la buffata, diciamo così, dell'anno scorso, con la grande bellezza, lei è il Made in Italy agli Oscar di questa notte. Quando inizia la notte degli Oscar? Tardissimo. Sì, oltre mezzanotte. Invece io volevo ricordare, stanotte c'è stata una partita mitica di tennis con Fognini contro Nadal, con un match point incredibile in recupero. Fognini ha perso il primo set, poi ha vinto il secondo, al terzo set appena scongiurando il tie break. Fognini ha fatto un match point che è stata una roba veramente poetica, e volevo ringraziare. Ha vinto ed è in finale a Rio de Janeiro, ha battuto Nadal per la prima volta, Nadal ex numero uno al mondo, quindi una vera impresa per Fognini, per il quale incrociamo tutti le dita. Questa stasera c'è la finale, stasera c'è la finale. Prima ci sono i femminili e dopo finale. Controlla, dopo lo diciamo. Ma è contro Ferrer la finale, lo sanno anche i bimbi. Allora, abbiamo anche Francesco che ci chiama da Milano. Vai, Francesco, buongiorno. Francesco? Sì, pronto? Eccolo qua, prego. Io, buongiorno a voi, ho telefonato perché volevo tentare di darvi la risposta per quanto riguardava la faccia da Oscar. Sì, sì. Che ritengo sia Timothy Spall, che è l'attore che era protagonista del film Turner, perché c'era proprio una faccia. La ritengo da Oscar nel senso che attira molto l'attenzione ed è un attore magnifico, ha fatto un film È caduta la linea, Francesco? Pronto? Ah no, qua. No, dico, dovresti vedere le nostre di facce adesso, Francesco, perché? Siamo rimasti. Timothy Spall. Certo. È l'attore di Turner. Sì, assolutamente. Ed è anche candidato a 4 Oscar. Bah. Però non era lui, niente, no, non ci siamo. Grazie Francesco comunque per aver giocato con noi. Insomma, del resto l'indizio era questo. C'è anche qualcuno che ha telefonato per dire Oscar Giannino. però lo dico subito, non è Oscar Giannino, che se no sarebbe stato Oscar, un po' troppo facile. Oscar, beh, un po' troppo è una facile. Giusta interpretazione, cioè, ironica del nostro indizio. Dare il nome del personaggio nell'indizio sarebbe un po' facilino. Vogliamo dare un altro indizio? Bravo, un altro pezzo di indizio? Allora, il secondo indizio, il nostro primo indizio è che ha la faccia da Oscar ma non ne ha mai vinto uno. Il secondo indizio è che si occupa di soldi. Quindi qua spiazzati completamente gli ascoltatori. 800 24 0024, tra poco. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Torniamo a parlare di imprese salvate dai lavoratori, dai ex dipendenti che si trasformano in imprenditori. Workers buyout, è così che si dice, con un inglesismo. Con un inglesismo. E adesso ce lo traduci, visto che hai questa tua campagna personale contro gli inglesismi. Lavoratori che si comprano l'azienda, in pratica. Esatto. Spesso esatto. Mettono quote dei loro TFR, della mobilità, per mettere insieme delle cooperative che rilevano marchi, attrezzature, impianti e anche fette di mercato di imprese che non ce la fanno più a stare sul mercato. Per loro, per questi lavoratori, è l'unica alternativa, diciamo, a rimanere a casa, a non far nulla. L'ultimo... Ce ne occupiamo noi, diciamo, per dirla con un hashtag direi ce ne occupiamo noi. Bello, questo è bellissimo, ce ne occupiamo noi. L'ultima storia che vi raccontiamo viene dal Veneto, dove tra l'altro è stato aperto da poco uno sportello di consulenza alla Lega Coop, proprio perché di queste storie in Veneto ce ne sono sempre di più, allora hanno pensato di attrezzarsi. La storia che vogliamo raccontare però è quella della Sport Arredo e ne parliamo con il presidente della cooperativa Sport Arredo, Claudio Pasquon. Buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Buona domenica a tutti i radioascoltatori. Buona domenica anche a te Claudio. Allora, la storia adesso ce la racconterai tu, però parliamo di un'azienda che ha avuto 30 anni di florida attività in passato nel settore dell'apparecchiature solarium, cosmetici, apparecchiature per l'estetica. Poi la crisi, negli anni della crisi, negli anni recenti, e diciamo la chiusura e il vostro arrivo, il vostro approdo. Il 22 gennaio avete firmato il rogito dal notaio, esatto. Per fare che cosa? Ma diciamo che abbiamo dato continuità alla società che abbiamo rilevato, appunto. E dal 79, come hai detto tu, produciamo apparecchiature solarium per l'estetica e commercializziamo prodotti per le linee per la cosmesi. Sì. E è stato un continuo crescendo fino al 2009, quando il trend macroeconomico negativo generale ha influenzato anche la nostra attività. E a seguire lo stato di crisi, ma alcuni lavoratori. Sì, c'è stato, scusa, prima di arrivare a questo, c'è stata una crisi, diciamo, era l'effetto della crisi, della grande crisi anche sulla vostra azienda, oppure anche il mercato di questi tipi di apparecchiature, diciamo, è andato in difficoltà? Diciamo che prima di tutto il trend negativo economico nazionale è quello che ha portato alla crisi in assoluto nel settore. e poi ci sono susseguiti un decreto ministeriale che ha aggiornato la normativa sull'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, e ancora una risoluzione commerciale con un importante nostro partner. Questo ha portato lo stato di crisi della società, nonostante Sportaredo abbia rivisto tutta la sua struttura produttiva e sia intervenuta nei costi generali. Purtroppo anche questa nuova dimensione non era in grado di sostenere un adeguato volume d'affari da garantire la continuità. E quindi dicevi, si arriva alla crisi vera e propria. La crisi vera e propria, sì. Esatto. E un gruppo di dipendenti, proprio per citare anche il vostro slogan, protagonisti tenaci e audaci, direi io, dicono si può fare e mettono in piedi questa strategia, questo progetto, per evitare di disperdere questo patrimonio di competenze e esperienze che abbiamo accumulato in tanti anni di attività. E la soluzione qual è? Formare una società cooperativa, questa è stata la nostra prima idea. Dopo una prima fase di formazione sul modello cooperativo, fatto appunto, come avete detto voi, con DegaCoop e con la loro assistenza, abbiamo cominciato il percorso Walk and Buyout, che ha portato appunto, come avete detto, a gennaio alla costituzione di Sportaredo Group. E oggi i soci fondatori appunto sono quelli che occupano il management dell'azienda, dalla gestione amministrativa, commerciale, dalla progettazione. Quanti, scusa Claudio Pasquale, sì, quanti siete lavoratori, diciamo, quanti eravate occupati, sì, e quanti siete adesso nella cooperativa? Diciamo che nella storia è arrivata anche a 250 dipendenti la società. Poi nell'ultimo periodo eravamo 40 persone circa, e questa cooperativa è partita con 7 soci fondatori, e con soddisfazione già dopo il primo mese abbiamo integrato 4 persone. Quindi da 7 a 11. Siamo già in 11. Piccoli passi perché non è facile. Chiaro. E che cosa avete investito di vostro? Come prevede lo statuto delle società cooperative, abbiamo impegnato la nostra indennità di mobilità e alcuni propri risparmi, ma abbiamo avuto anche la capitalizzazione di soci sovventori, soci finanziatori come la Coop Fond e la CFI, che sono controllate, che sono arrivate a noi tramite LegaCoop appunto. Tu personalmente, possiamo dirlo, quanto hai investito? Perché è importante sottolineare anche questo aspetto, cioè si passa, non è un passaggio, diciamo così, che si fa in allegria, cioè si investono propri soldi, cioè chi magari decide di non avere questo coraggio, questa voglia di rischiare, e l'indennità di mobilità la spende per fare qualcos'altro, se la tiene lì cercando di trovare un altro lavoro. Invece tu quanto hai investito? Ma lo Stato permette di anticipare tramite l'INPS tutta la mobilità, quindi per nel mio caso erano 24.000 euro circa. Capite che non sono pochi. Esatto, e questo hanno fatto anche tutti i soci comunque, perché abbiamo imposto come quota d'ingresso tutta l'intera mobilità. Quindi scusami, tutti quelli che volevano entrare, voi gli avete detto queste sono le condizioni per entrare, oppure voi avete deciso? No, è proprio così. È partito da un gruppo di lavoro questo progetto, e chiaramente siamo guardati prima in poche persone, poi abbiamo allargato a quelle che sono le funzioni principali dell'azienda, in modo da avere la copertura globale. Da lì adesso apriamo, man mano che le necessità vengono quotidianamente, apriamo anche soprattutto gli ex colleghi. Certo. Senti, giusto per fare una domanda che può sembrare un po' sgradevole, ma c'è qualcuno che avrebbe voluto partecipare alla cooperativa ma che è rimasto fuori per qualche motivo? Ma io immagino di sì, che tra 40 persone ci sia qualcuno che avesse ambito ad entrare in società subito, ma dobbiamo dare tempo e quindi cercare. Ma chi decide in questo caso? Ti chiedo scusa, perché è una domanda che faccio in realtà un po' sempre quando sentiamo queste storie, perché sono sempre curioso di capire se è una cosa dove si decide tutti insieme, facciamolo. No, tutti insieme. Diciamo che la cooperativa è fatta di un gruppo, è fatta di una condivisione di un progetto comune, quindi siamo tutti protagonisti. I sette iniziali, diciamo, giusto? Esatto, sì, sì. E poi voi vi sedete a un tavolo e vi dite: ne possiamo accettare altri 4, ma non altri 400, ovviamente. Chiaro che sì. Ok. Perché una delle componenti sarà anche quella, immagino, di come dire, ridurre il numero di lavoratori, perché se c'è stata una crisi di un'azienda prima, è chiaro che non si può continuare a, come prima, cioè eravate sì, 40, a continuare a fare le stesse cose. Uno dei motivi per cui la società non ha potuto reggere è proprio il sovradimensionamento. Ma adesso che cosa avete ereditato dalla vecchia azienda? Cioè avete firmato un contratto? Beh sì, chiaramente abbiamo trasferito tutte le proprietà intellettuali dei progetti che erano in corso, marchi e brevetti e parte dell'attrezzatura necessaria poi per produrre. Oggi siamo in grado di comunque a 360 gradi di portare avanti l'attività che avevamo in mano. E avete iniziato anche già la produzione o è troppo presto? No, no, la produzione è già partita e direi anche la grande, perché con enorme soddisfazione il mercato ha riconosciuto questi lavoratori che si sono tirati sulle maniche e hanno cominciato a lavorare e hanno riconosciuto il nostro marchio ancora come valido sul mercato e hanno cominciato a lanciare gli ordini. Questo è molto buono. Esatto. Ma gli ex, scusa, forse è una domanda stupida, ma tanto sono lo stupido, quindi va bene. Ma gli ex proprietari come vivono tutto ciò? Ma gli ex proprietari sono molto vicini, nonostante l'avventura che hanno vissuto. Cioè sono contenti di questa sorta di evoluzione, non è che si sentono espropriati in qualche modo? Ma no, sono espropriati perché non fanno più parte della società, ovviamente. Però chi ha costruito in 30 anni un impero poi è anche felice a vedere una continuità e non che ci sia una continuità. È chiaro che sì. Beh sì, da un lato è felice, dall'altro c'è una continuità, però non ha più le chiavi della cassa, diciamo. Questo sì, purtroppo. Anche perché la cassa è vuota, non è che sto dicendo che abbiate espropriato niente. E no, Claudio, la cassa è vuota, è pronta per essere riempita da... Giusto. Com'è invece dal tuo punto di vista passare da essere un semplice, diciamo così, dipendente con delle responsabilità, magari a essere il presidente della cooperativa? Dormi qualche ora di meno la notte? Ma no, fortunatamente dormo ancora bene, dormo poco ma bene, concentrato. È stata una bella sfida e ha comportato per tutti noi comunque un cambiamento di approccio e di visione del nostro lavoro. Sì. Abbiamo tentato di fare di quello che era un disagio un'opportunità di riscatto, perché questo è quello che volevamo. Quanti anni hai lavorato tu prima nella Sport Arredo? Ma io lavoro da più di 25 anni nello sportarello, quindi... Quindi uno arriva anche a una maturazione tale per cui a un certo punto diventa un passaggio obbligato, ma in qualche modo, come dire, dove vanno a maturazione anche delle esperienze personali. Tu ti senti pronto per fare il presidente di questa cooperativa? Lo sono. Ottima risposta. Bravo. Ottima risposta. No, però è bella questa cosa dei 25 anni, perché in qualche modo ti senti a casa tua, non vuoi perdere quella cosa e dici io sono in grado di portarla avanti, anzi forse è stata gestita male fino adesso e io penso di essere in grado di farla progredire meglio, giusto? Ma sicuro dobbiamo fare di quelli che sono gli errori del passato motivo per non incorrere ancora nelle stesse... Non ripeterli. Chiederlo a te credo che sia banale quasi, però te lo voglio chiedere lo stesso. Pensi che questo modello workers buyout, quello che è successo a voi, che sta succedendo sempre di più in tante aziende in crisi, la differenza è che prima c'erano crisi e chiusure, basta, adesso c'è qualche ripartenza con queste cooperative, non è un giudizio quello che sto dando, che possa essere un modello, diciamo, in crescita in Italia e che salvi qualche posto di lavoro. Ma io mi auspico che sia un modello in crescita, perché come ha aiutato noi, io penso che molte aziende in difficoltà in questo momento dovrebbero proprio guardare questo tipo di processo che è possibile fare, soprattutto perché c'è il sostegno da parte degli organi competenti, lo Stato stesso, insomma, permette tramite l'INPS il riconoscimento dell'anticipo della mobilità per chi vuole impegnarsi in tal senso, quindi direi che il mio auspicio è quello che questi processi, workers buyout, siano in crescita. Soprattutto anche nella nostra zona, dove poco ho sentito questo processo, nel Veneto orientale, noi siamo la quarta esperienza, quindi benvengano insomma... Alcune di queste storie le abbiamo raccontate anche noi. Se si può azzardare, non so se sei d'accordo, togliendo tutto il dolore, la crisi, il rischio di perdere il posto di lavoro, in realtà è una miglioria questa. Cioè, diventare imprenditore di se stessi non è forse una miglioria invece che... cioè, diventare proprietari di un pezzo dell'azienda nella quale si lavora da 25 anni? È uno sviluppo sicuramente, Claudio. Ma decisamente è un'opportunità positiva che abbiamo vissuto tutti noi soci, perché spesso si siamo su questo argomento è decisamente positiva. Ecco, come Claudio, credo che cambi il lavoro tutti i giorni adesso. Approfitterete del Jobs Act? Assumerete qualcuno con le nuove norme? Dal primo marzo. Decisamente sì, questo potrà aiutare non solo la nostra società, ma io penso che sia uno strumento con cui parecchie aziende in difficoltà oggi possono puntare su questo tipo di strumento per soprattutto la decontribuzione dei neoassunti, credo potrebbe soprattutto essere. Soprattutto questo, nella nostra fase più che mai, visto che siamo appena partiti, avremo bisogno di integrare il personale nel breve, io lo spero. Quindi questo ben venga. Nella tua esperienza di persona che ha perso il lavoro, rischiato di perdere il posto di lavoro e l'ha difeso coi denti dovendo fondare una cooperativa e mettendo del suo, questa questione dell'articolo 18, cioè della, diciamo, di una maggiore facilità che c'è adesso di poter licenziare, è come dice Renzi una possibilità in più, una spauracchia in meno per l'imprenditore ad investire in Italia, o la perdita effettiva di un diritto dei lavoratori? Ma io penso che non fosse l'articolo 18 a fare la differenza. Il problema è che in Italia dobbiamo costruire lavoro e mantenerlo radicato nel territorio, cosa che in questi ultimi anni è stato fatto poco e lo Stato stesso poco l'ha permesso. Diciamo che non è la mia materia, ma sì. Poco cambia, secondo me. Perché nel caso vostro, per esempio, il lavoro si è perso non tramite articolo 18 con licenziamenti di questo genere, ma per la crisi del mercato e l'azienda che è andata in difficoltà. Le stesse difficoltà che avete adesso di fronte voi, ma che, diciamo, tentate di superare con questa ripartenza. Grazie per essere stato con noi, Claudio Pasquon. Grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie mille, in bocca al lupo, buona domenica. Della cooperativa Sport Arredo. Uno dei casi recenti in Veneto, tanto che appunto la Lega Coop ha aperto addirittura uno sportello di consulenza per dare una mano a questi workers buyout. Cosa dobbiamo fare adesso, ascoltatori? Ascoltatori, speriamo che qualcuno indovini. Enrico da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Enrico? Sì, sul personaggio della settimana. Sì. Ci dica. Chi è? Kirk Douglas. Per qual è la notizia su Kirk Douglas? È una non notizia, cioè hanno smentito che sia morto, cosa che praticamente ogni 6 mesi fanno. Ok, lui non ha mai vinto l'Oscar, Kirk Douglas? No, mai. Ah, vedi, allora gli indizi si allineano, però non era lui, Enrico. Ringraziamo molto questa risposta. Poi c'è l'altro indizio. Ricordiamo che Douglas, diciamo, ha questa sfortuna di essere dato per morto nei 6 mesi, anche perché è del 1916, quindi ha 98 anni. E però non si occupa di o forse sì, ma questo c'è quest'altro non lo so. Indizio, cari ascoltatori, che il nostro personaggio della settimana in realtà si occupa pure di soldi. Carmela Lauricella è il nostro regista. Facciamo il time out, l'ascoltatore Giuliana lo facciamo dopo. Ok, a dopo. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, 800 24 00 24. Ancora un po' di tempo per i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo già annunciata Giuliana, che ci chiama da Modena. Buongiorno. Salve, buongiorno. Chiamo da San Felice sul Panaro. Buongiorno. Per l'esattezza, perfetto. Come ben ricorderete, 3 anni fa quasi c'è stato un terremoto qua. Sì. Ecco, io ho sentito che prima stavate parlando di deposito di stoccaggio di gas. Sì, affermo. Allora, giusto? A Rivara, che è una frazione di San Felice, da anni si sta pensando di fare questo stoccaggio megagalattico di gas. Il problema è che quando incontrano un ostacolo nei loro carotaggi, cosa succede? Che fanno delle micro esplosioni utilizzando l'azoto. Dovrebbe essere un'esplosione controllata, però succede che può provocare dei terremoti. Negli Stati Uniti questo lo stavano utilizzando da tempo, poi hanno sospeso perché hanno capito che c'è questa causa di di problematica non indifferente, insomma. Cioè dice che non è semplicemente il rischio di fare una zona di stoccaggio in una zona sismica, ma che addirittura l'organizzazione questa dello stoccaggio sismica, esatto, dico, non era assolutamente zona sismica, è scavando che si possono creare dei terremoti in quella zona. Anche perché se ci fate caso tutte le scosse sono ad una profondità molto bassa, 3 chilometri, 20 chilometri, di solito i terremoti sono molto più in profondità. Non sono un sismologo, ma sì, non neanche io, però insomma, sì, è chiaro che questo è un argomento molto delicato. Le posso solo dire questo, che allora la mattina del 20 di maggio, 3 ore dopo la scossa, non c'era più traccia di scavatori, di niente. Allora, cioè? Se non c'è niente da poter, cioè, scusi, spieghi meglio. Allora, nella zona dove stavano facendo, sì, i carotaggi, le cose, c'erano tutti i macchinari, eccetera, eccetera, no? Qualche ora dopo il terremoto non c'era più niente. Cioè, le dice sono scappati per non farsi. Non lo so, però questo non lo sappiamo neanche. Allora, se non c'era nessuna connessione, non c'era motivo di portar via tutto, io dico. Beh, magari era il giorno che finivano i lavori, questo io non conoscendo la questione, le chiedo scusa. No, non va bene, Giuliana, questo è un argomento molto delicato, riguarda soprattutto la zona dell'Appennino, dell'Emilia Romagna, però stiamo attenti perché insomma, sì, se crede ai terremoti è chiarissima la sua posizione. È chiaro, grazie Giuliana. Questa, grazie, diciamo, mille. È tra le argomentazioni ovviamente contrarie. Noi siamo partiti questa mattina dal tema delle trivellazioni per il petrolio in Basilicata, che trivellazioni che già avvengono e che, come abbiamo già ricordato più volte, contribuiscono col 12% del fabbisogno nazionale appunto all'approvvigionamento di petrolio in Italia. Il tema delle scosse sismiche legate però in questo caso al metano, allo stoccaggio, alla creazione di luoghi di stoccaggio, riguarda più un'altra zona dell'Italia, anche se chiaramente come argomento può essere una preoccupazione che riguarda anche le trivellazioni per il petrolio in Basilicata. E quindi no, non siamo in grado di aggiungere molto, perché bisognerebbe essere degli scienziati per dare delle risposte su questo. Comunque è giusto sollevare questi argomenti. Vittoria da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cambiamo argomento, parliamo sempre di trivellazioni e di petrolio, Vittoria. Avevo chiamato per partecipare a indovinare il personaggio. Ah, fantastico. Fantastico. Ottimo, siamo tutti orecchi. Avevamo pensato, parlo al plurale perché l'intuizione è stata di mio marito, io subito l'ho avvallata, al ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. C'è sempre di mezzo un marito che suggerisce a una moglie che telefona, è successo anche la settimana scorsa, se non ricordo male. Le donne sono più un uomo che parla e una donna che agisce, diciamo. Ho avvallato, esatto. Sì, ma lui è più timido. Ho avvallato perché lui ha proprio la faccia d'attore, appunto, sì. Sembra uscito da Hollywood. Qualcuno l'ha paragonato a Bruce Willis, è stato sembra uscito anche un po' dagli anni '80, dalla Milano da bere, direi. Sì, così. Sì, forse sì. Che sento dalla voce che non ha 20 anni, giusto? No, io ho più di 50 anni. E quindi, ottimo. Vabbè, poi si occupa di soldi, ovviamente, sì, perché è il ministro delle finanze, quindi sì. Che facciamo? La premiamo! La premiamo, signora, ha vinto. Brava Vittoria. Sono molto contenta. A lei oggi. Anche noi. Ha grazie. Vinto più lei di suo marito, perché è lei che ha telefonato. Ci teniamo a ricordarlo questo. Sì. Farete una pagina per uno del catalogo, sì, di Chagall. Grazie. Grazie mille. Buona domenica. Buona domenica. Arrivederci e complimenti. Arrivederci. Grazie. Mi avevano anche sul mio Twitter, sì, personale, Liliana Dal Gobbo aveva scritto per me è il personaggio Yanis Varoufakis, però ricordiamo che bisogna telefonare, che sì, non è sufficiente twittare o mandare degli sms. Va bene lo stesso, ci piace, no, siamo no, felici. Infatti, però... La ringraziamo, ma le facciamo pure i complimenti perché ha indovinato Liliana Dal Gobbo, ma non le possiamo inviare nessun catalogo. Niente, proprio niente. Adesso facciamo il traffico, torniamo tra un attimo. Troviamo Federico Taddia con le notizie sul crowdfunding. Ciao Fede. Buona domenica, eccoci qua. Ciao Fede. Allora, oggi dove ci porti? Oggi vi presento intanto una piattaforma nuova che si chiama planb.iz, una piattaforma che ha come titolo Facciamo rifiorire i luoghi, e nasce come piattaforma per il crowdfunding civico di cui già più volte avete parlato, per migliorare i luoghi ambientali. Quindi si danno come specifica proprio quella di intervenire per sistemare dal parco sotto casa, la pista ciclabile, tutto ciò che è verde urbano, e loro si propongono appunto come piattaforma per presentare questi progetti. E in particolare hanno lanciato un primo progetto molto importante che si intitola Aiutaci a far rifiorire il giardino dei semplici. Cos'è il giardino dei semplici? È uno dei più antichi orti botanici al mondo, stiamo parlando di Firenze, è stato realizzato nel 1545 e questo orto botanico il 19 settembre su Firenze si è abbattuto un temporale pesantissimo e ha praticamente distrutto questo orto botanico. Quindi è stato lanciato questo progetto di crowdfunding per colorare l'orto botanico, ovvero è stato finanziato dal punto di vista pubblico il restauro di gran parte di questo giardino, però mancano i soldi per collocare piante molto particolari e colorate per offrire un ambiente accogliente il 1 aprile 2015, data che si sono prefissati per la riapertura al pubblico. Quindi c'è la possibilità di autofinanziare queste piante. Mi fa molto bello. Ho dei ricordi dell'orto botanico. Ti ricordi che andavamo in gita scolastica all'orto botanico, per esempio? Almeno nella nostra generazione ci portava. Non so se adesso i bambini ne portano ancora. Sì, poi anche da rispondo grande, io sui bambini di adesso. Perché tu hai un sacco di nipoti. Esatto. Quindi lo sai. Poi sono posti meravigliosi. Ricordo quello di Palermo, ma a Milano ce n'è uno bellissimo. E a Padova ne è appena stato inaugurato uno che è super tecnologico, super tecnologico, è vero. Guarda, sono luoghi meravigliosi gli orti botanici, quindi vai. Volevo chiederti una posso chiederti una cosa, Fede? Perdonami, siccome facevi una giusta precisazione dicendo questa è una nuova piattaforma, perché appunto ricordiamo che ci sono diverse piattaforme sulle quali le persone possono proporre dei crowdfunding. Siccome ce n'è tantissimi di crowdfunding, volevo chiederti una cosa: ma la piattaforma in qualche modo si fa anche da garante per i progetti che poi sono sulla sua piattaforma, appunto? Si fa da garante, nel senso che non vengono inseriti sulla piattaforma alla cieca, quindi c'è proprio una sorta di confronto tra chi gestisce la piattaforma e chi lancia il progetto. Ci stanno specializzando le piattaforme, un po' questa Perfetto, credo la caratteristica, e questo ne è un caso particolare, no? Non solo progetti di crowdfunding, ognuno segue un tema, un'area, finalità, certo. È un tema, un'area che mi sembra un modo anche per fare chiarezza e serietà nelle esattamente a questo. È uno sviluppo, il crowdfunding 2.0 forse potremmo dire. Altra segnalazione, Fede? Altra segnalazione, se cambiamo completamente argomento, produzionedalbasso.com è la piattaforma, e parliamo del Circo Luce. Cos'è il Circo Luce? È un circo messo in piedi da Luciano Strascio, una bicicletta e un tendone da circo si monta su questa bicicletta e due fari. Luciano gira con la sua bicicletta per tutta Europa a fare spettacoli di marionette, si chiama Circo Luce e ha lanciato una piattaforma di crowdfunding. L'obiettivo è quello di 2.800 euro, quindi non tantissimo, perché deve acquistare nuovi mezzi, perché il tendone da circo si è ingrandito, non pesa più 60 kg ma ne pesa 90, quindi deve comprare attrezzatura nuova per ripartire verso le coste del Mediterraneo, vuol fare il giro del Mediterraneo con la sua bicicletta, attraverso il quale fare i burattini. Molto poetico, molto romantico, molte belle anche le ricompense, perché 10 euro, grazie, 30 euro lui si offre per un caffè, quindi un caffè con Luciano per fare una chiacchierata, e per 100 euro lui è un falegname oltre che fare i burattini, per 100 euro ti realizza delle nuvole in legno che puoi usare come soprammobile, e per 500 euro viene a fare lo spettacolo a casa tua, scusate se poco. Questo sembra bellissimo. E viene in bici da solo con 90 kg di tendone montato sopra. Esatto, se lo monti nel tuo cortile, due fari perché sono le luci, e c'ha queste storie molto belle, molto antiche, che pesca nella tradizione del teatro di figura, e fa i burattini per te. Produzionedalbasso.com è la piattaforma, Circo Luce è il nome del progetto. Ok, direi che ci fermiamo qua. Ottimo. Oggi, tra poco abbiamo un omaggio a Luca Ronconi, quindi chiudiamo prima del previsto. Grazie Federico Taddia. Buona domenica. Grazie. Buona domenica, a domenica prossima con le notizie sul crowdfunding e tutti i link anche di queste iniziative che sono molto precisi e dettagliati, li trovate sui nostri social network e sul sito di Radio 24, naturalmente alla pagina di Si Può Fare. Adesso tra poco sentiremo un'intervista realizzata da Marta Cagnola a Luca Ronconi, scomparso ieri, attore e regista, lo sapete, tu fra l'altro mi dicevi prima che te l'ho conosciuto, che è un gigante, una grande persona, un gigante veramente. Questa intervista che noi sentiamo è stata realizzata 2 settimane fa in occasione dello spettacolo Lehman Trilogy, che è al Piccolo Teatro di Milano fino alla metà di marzo, che si occupa naturalmente della questione dei fratelli Lehman, della Lehman Brothers, della crisi, quindi sì, la loro storia, il sogno americano, poi il crollo e tutto quello che è tuttora in scena lo spettacolo, esatto, fino a tutto marzo credo. Quindi tra poco l'intervista a Luca Ronconi di Marta Cagnola, con cui oggi ci congediamo. Prima però facciamo i saluti e ringraziamenti anche, come sempre, il nostro Andrea Piana, che abbracciamo, autore insieme a noi del programma, che abbracciamo, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, oggi abbiamo avuto Riccardo Buccero, che abbracciamo anche lui, che abbracciamo, direi, anche lui, trasferta dalla Zanzara qua con noi in assistenza oggi in diretta, Carmelo Lucena in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Sì signori, saluti, abbracci, buona domenica e anche salutiamo chi, anche chi ci ascolta, in podcast naturalmente. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Luca Ronconi. La prima cosa che le devo chiedere per forza, maestro, è l'affascinazione per questo tema. In questi anni lei ha toccato l'economia più volte. A seguito della quantità di domande che mi sono state fatte su questo argomento, sono andato a guardare quante volte nel teatro degli secoli passati il tema dell'economia è stato trattato. Che posso dire? Già nel Mercante di Venezia di Shakespeare si tratta, in modi magari meno diretti, un tema vicino al tema dell'economia. Cioè, non sempre il tema del rapporto economia e società, economia e singolarità delle figure è venuto così fuori come qui, per un motivo molto semplice, che come dire, l'individualità dei singoli è diventata meno rilevante che l'appartenenza dei singoli a, oramai a un mondo che planetario, dove i confini non esistono più, e quindi l'economia è una specie di nuova patria in cui ci troviamo a vivere. Una patria che ci ha tradito, una patria dalla quale forse ci aspettavamo qualcosa di diverso, e una patria da cui si aspettavano forse qualcosa, sicuramente qualcosa di diverso, i fratelli Lehman. Sì, voglio dire, le patrie sono sempre state molto esigenti nel rapporto con chi ci nasce dentro. E quindi probabilmente anche questa lo è. In più, se guardiamo anche i fatti che succedono nel mondo, è una parte divisa in due, perché anche il conflitto di religioni, in atto indubbiamente nel nostro mondo, ma osserva, c'è anche un aspetto, come dire, religioso in atto, e questo crea in qualche modo un legame molto più forte. È anche una storia umana. Lei come ha vissuto il rapporto con questi tre fratelli che noi vediamo arrivare, crescere, vivere, morire, tornare? Indubbiamente le tre figure sono descritte molto chiaramente nel testo. I tre fratelli che cominciano sono descritti come il primogenito è la testa, il secondogenito è il braccio, il terzogenito è, come dire, una patata. Il rapporto fra i tre è anche abbastanza interessante, perché la testa, va bene, è quello che appassiona al creatore per primo, quello che naturalmente a cui spetterebbe la primogenitura dopo la morte del primo è il braccio. Ma è un braccio che poi preferisce, in qualche modo non è abile, diplomatico, lungimirante come il terzogenito, per cui il braccio poi gli passa indubbiamente la conduzione dell'attività. Le chiedo un'ultima cosa proprio sugli attori, visto che alcuni l'hanno accompagnata già da tanto tempo, sì, nelle sue creazioni. C'è un Fabrizio Gifuni che ha incontrato quasi per la prima volta. Come ha scelto questi attori? Come hai detto, De Francovic e Popolizio hanno lavorato con me per tanto tempo. Gifuni l'ho visto, ho visto delle sue cose, l'ho conosciuto personalmente, mi ha incuriosito, la sua, il suo aspetto di attore, gli ho proposto di venire a lavorare, a fare un'esperienza con me. Lui ha accettato di buon grado e per me è stata una gratificazione. Conoscere dei nuovi attori o degli attori che io con cui non ho lavorato è anche qualcosa che mi mette, un piacere di attività, e quindi io sono stato molto contento. Ma poi ci sono anche degli attori giovani, più giovani. Paolo Pierobon negli ultimi anni è stato uno dei miei, degli attori con cui, e qui ha un successo strepitoso, ma anche Fausto Cabra, che fa l'ultimo e che mi dispiace non abbia avuto, almeno in sede critica, lo stesso riconoscimento che merita. Il personaggio è fondamentale, non ha dei lunghissimi monologhi da applauso a scena aperta, eccetera eccetera, e invece secondo me è un attore ancora giovane che ha dato una prova di maturità e di sicurezza notevolissima. Mi piace sentire il suo orgoglio. Ha frequentato qui la scuola del piccolo teatro, a quella scuola io dedico molto tempo, eccetera eccetera eccetera, e mi piace che uno dei nostri ex allievi affronti una parte da coprotagonista insieme a 4-5 attori fra quelli di miglior livello del teatro, della scena italiana.